Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attenzione, mette giù Kakà, morbido in mezzo, Ronaldinho, rete! Rete! Rete, proprio lui, incredibile! Proprio lui, l'uomo più atteso, a sorpresa in campo, trova il gol dell'1-0, Milan in vantaggio. Ragazzi, nella settimana degli intramontabili, compreso il portiere dell'Egitto Eladari, che giocherà la finale di Coppa d'Africa, compreso Federer, compresi tutti quanti, ci sono anche quelli che tramontano, perché è fisiologico, giusto, naturale così. Frankie Lampard, 873 presenze in Premier League con 171 gol, bandiera dei Blues del Chelsea, e Ronaldinho, 145 presenze, 70 gol nelle sue stagioni migliori, quelle con il Barcellona, hanno detto addio. È giusto così, no, Pierluigi Pardo? Giovanni Capuano oggi che è qui con me. Ecco, è una super festa, è una grande festa. Una super schedina, grande festa, con la super schedina, con un vigilione sul quale, di molte cose, sul quale io e Capuano abbiamo già litigato fino quasi a prenderci a botte. Fisiologico, no? Grazie a tutti, grazie a Lampard, grazie a Ronaldinho, due superstar del calcio mondiale, però giusto così, no? Che ogni tanto decidono di mettere un punto. Che ne dite, ragazzi? Che tutto finisce, prima o poi tutto finisce, anche se Federer, Totti e qualcun altro, Buffon, ci farebbero pensare ad altro. E la Dari. No? Sì. Insomma, la normalità è un'altra, insomma, quelli sono le eccezioni, e comunque li celebriamo sia Ronaldinho che Lampard, che sono stati in maniera diversa due grandissimi, insomma. Lampard ha avuto, secondo me, il grande rammarico di non aver contribuito a delle vittorie in nazionale, a non aver fatto il salto di qualità in nazionale, in un centrocampo potenzialmente fortissimo con Steven Gerrard, con Beckham finché c'era, insomma, sì. Però non sono arrivati i trionfi, ma lì la questione evidentemente è più complicata. E Ronaldinho è stato un giocatore umorale che ha avuto però degli sprazzi, insomma, che l'hanno portato al pallone d'oro. È stato un giocatore che in quel 2006 incredibile, quindi, insomma, lo veneriamo come giusto che sia. Io comunque preferisco quelli che mollano, anch'io. A quelli che... Allora, pugnetta mentale per tutti, da Giovanni Capuano a Pierluigi Pardo, a Giorgio De Luca, nostro autore, a Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Tra i due, chi preferite? Tra Ronaldinho e Lampard. Come si fa a discutere? Credo Ronaldinho, Lampard. Anche se poi di quella generazione di brasiliani, alla fine Ronaldinho è quello che credo lascerà meno traccia di tutti. Perché ci sono brasiliani che hanno giocato tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, che quando saranno davanti al focherello con la potranno raccontare cose che Ronaldinho ha soltanto sfiorato. Sì, penso a uno come Cafu, penso a Ronaldo. È venuto al Milan praticamente in mezza pensione. Vabbè, io scelgo chiaramente Lampard, ma non è una scelta soggettiva, insomma, io amo il calcio inglese. Come bellezza, come fai a scegliere Lampard rispetto a Ronaldinho? Ho un ricordo di Lampard bambino che usciva dal campo al West Ham quando ero lì. Vorrei che fosse di quel 96, poteva essere, quando era ancora praticamente un ragazzo della primavera del West End che usciva era già predestinato, in realtà gli addetti ai lavori già lo sapevano che sarebbe diventato quello che è diventato. Poi è ovvio che, insomma, il talento di Ronaldinho, il talento che era 96 lui giocava lì. Quindi abbiamo la stagione 95-96, siete 2-1, però io sono convinto che il voto della giuria popolare ribalterà su questo verdetto. Sono due carriere molto diverse, perché mentre Ronaldinho ha avuto una carriera con alti e bassi, ha avuto una carriera anche al massimo livello piuttosto breve, esatto, una carriera a quei picchi lì piuttosto breve, a quei picchi lì sono stati trascendentali. Lampard ha avuto una carriera più regolare, adesso non è che so i numeri di memoria, sto qui davanti a Wikipedia. Lui al Chelsea è stato per 10 stagioni consecutive in doppia cifra, facendo 211 gol in 348 partite. Bravo. Che per un centrocampista non è proprio malissimo. Ecco. No, mezzala straordinaria. Record man di gol con la maglia dei Blues, tra l'altro. Sì, sì, 106 presenze, 29 gol con la nazionale. Gerard is better than Frank Lampard. Gerard, questo qui cantava tifosi del Liverpool, no? Gerard è meglio di Lampard, ma insomma in realtà erano due grandi mezze. Anche questa, io ho molto rosicato perché essendo simpatizzante alla nazionale inglese ho molto rosicato negli anni perché insomma, sì, ti capisco, perché con due mezzali così non vincere niente, non vincere, però, non vincere niente, neanche andarci vicino. La colpa, posso dirlo, la colpa è di Gerard. No, perché Gerard è un giocatore secondo me è meraviglioso. La colpa è di Gerard, dai. No, ma è un giocatore anarchico, è un giocatore non facilmente inquadrabile secondo me in un grandissimo centrocampo, quindi io penso che Gerard, per il quale impazzisco, stravedo, è un'essenza, un'anima, insomma dobbiamo parlare di Gerard, dai, cioè siamo proprio nell'iperuranio, però sicuramente in un centrocampo di grande livello, di grande talento come quello che aveva potenzialmente quell'Inghilterra lì, non era facilissimo da inquadrare. Vabbè, ragazzi, comunque io sottoscrivo, un amico ha scritto WhatsApp, diamo questi numeri perché sennò 800240024 per parlare con noi, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, un amico scrive: state sommando le mele con le pere. Le mele con le pere non si possono paragonare, e ha ragione, lo invito a riscrivere così ci dice il suo nome. Sì, dai. Ma io sto parlando di tipo di cioè, già è difficile fare il paragone. Allora non si può paragonare Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Scusate il parallelo d'antan, ormai sono ultra quarantenni. Se volete, voi che siete bravi, trovate le due più fresche. Però che vuol dire? Sono due grandi calciatori. Va bene, ragazzi, dopo questa apertura folle, adesso ci fermiamo e poi continuiamo con le follie. Ma la dieta vegana la fai anche tu, Pardo, o solo il Milan? No, io guarda, perché se mi danno soia e camut, io chiedo il trasferimento. No, io ho grande rispetto dei vegani, ne ho anche incontrati alcuni nella presentazione del libro di Giulio Innocenzi, grandissimo rispetto, però. Rispetto sì. Totale, però ognuno può fare quello che vuole nella vita, però no, anche no. Tra i giocatori, leggo il titolo di Repubblica, sottotitolo, l'occhiello di Repubblica, tra i giocatori cresce la voglia di carne rossa, bandita insieme al pomodoro. Vabbè, ci fermiamo per il traffico e poi rendiamo pubblico con altri ospiti il confronto tra me e Giovanni Capuano. State lì. Tutti convocati. Convocati. Gli avversari, Guarin è più veloce di Vidal, arriva in zona tiro, prova il destro, Buffon, Diego, Milito, 2-1, 2-1. Llorente in area, Llorente di forza, la palla lì, Pogba, contrasto, Vidal, 3-0. Corridoio, D'Ambrosio diventa un assist e gol di Bonucci, Juventus in vantaggio. Allora, vigilione di un sacco di cose, e infatti abbiamo un sacco di argomenti di cui parlarvi, cercheremo di affrontarli tutti perché ragazzi mi stanno costringendo, i ragazzi della redazione, Giorgio De Luca, mi stanno costringendo ai lavori forzati. Vigilione del Super Bowl, e poi arriva Cruciani a spiegarci tutto, del Sei Nazioni, e poi arriva Bagnasco a spiegarci tutto, della finale di Coppa d'Africa, Egitto-Camerun, vigilia anche se vogliamo di Bologna-Napoli che riapre il campionato ad alto livello domani, e soprattutto appunto vigilione del Derby d'Italia, Juventus-Inter, raramente negli ultimi anni così attesa, parleremo anche di basket, della vittoria dell'Armani, parleremo della dieta vegana del Milan, abbiamo già in qualche modo accennato, della polemica su un nuovo stop allo stadio della Roma, torneremo anche sull'argomento dell'abbattimento delle barriere all'interno di quello stadio, lo faremo dopo con Maurizio Crosetti. Intanto, insieme a Giovanni Capuano, che è qui con me in studio, a Pierluigi Pardo, mi hanno raggiunto Massimo Zampini e Ciccio Valenti, che ringrazio, saluto e ringrazio entrambi. Ciao, ciao. E ciao, rendo pubblica la polemica che è echeggiata tra me e Giovanni Capuano fuori onda, perché io ho detto, ma l'Inter ha pressoché buttato via, ha rinunciato alla Coppa Italia, a una semifinale di Coppa Italia che poteva valere per l'alzare dell'argenteria, in ossequio a questa partita che alla luce della classifica, ragazzi, va bene, aggiungiamo anche questo, no, aggiungiamo che non è che l'Inter ha giocato, no, con... però sei stato tu stesso a dire in una semifinale di Coppa Italia Icardi io me lo gioco, così come mi gioco Gagliardini, mi gioco l'intera formazione titolare di un progetto che sta nascendo. Capuano non è d'accordo, sentiamo Ciccio Valenti e Massimo Zampini. Giovanni. No, io gira tutto intorno al fatto che Pioli è sotto processo dai tifosi dell'Inter, da tanti tifosi dell'Inter, dall'altra sera a oggi, con l'accusa di aver snobbato la Coppa Italia pensando alla Juve. Io non sono d'accordo, insomma è una follia, ha giocato con 10 titolari su 11. Grazie, una per volta. Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Buoni. Parlare più di 4 alla volta, grazie, bravo Dende, Ciccio Valenti, che cosa rispondo? Bravo Pardo, bravo. Il processo lo vede soltanto Giovanni. Il processo dov'è? Non esiste. Ce ne sono tanti scontenti. Esistono, come, scusami? Ce ne sono tanti scontenti, già. Lo sai. Ma chi? Dai, di tifosi dell'Inter. No, allora, scontenti, ti spiace aver perso una partita contro la Lazio. Io ritengo che il turnover deve essere fatto, come più volte sostenuto, in caso di pleurite e peritonite e nessun altro caso, quindi cioè io farei giocare sempre la stessa squadra a prescindere, però insomma sono state fatte delle scelte, ma non mi sembra che ci sia un processo, cioè, quindi anche il legamento caso, rotto non che vale, si parla dell'Inter, i termini vengono gonfiati in una maniera Ciccio, ma secondo me neanche ha fatto turnover più, ma come no, a parte Palacio Icardi, ma di poco, i titolari non sono facendo 11. Tu cioè, allora se parliamo di critica è giusto, ma se tu mi dici che i tifosi dell'Inter hanno messo sotto processo Pioli, ci sono tanti che ritengono che sia stata una scelta sbagliata, e che quel primo tempo giocato così discenda da una lettura insomma che era più importante la partita di Torino di quella con la Lazio. Ti do ragione, se non nella diversità dei termini, ti do ragione, perché secondo me ogni partita deve essere giocata sempre con la stessa squadra, anche perché poi non è che ci siano tanti impegni per l'Inter così importanti, anche perché poi alla fine ti trovi a dover rincorrere, fare una partita in salita, dover inserire dei giocatori che magari non hanno il perfetto riscaldamento, quindi può avere una serie di motivi, insomma, ritengo che si debba sempre giocare con la stessa formazione, ma che sia stato un processo, sinceramente no, te lo posso assicurare, cioè Pioli è tutt'altro che messo sul banco degli imputati, anzi, rischia di essere santificato in città, nella città nerazzurra, insomma. O nella città di Torino. Intanto io immagino Massimo Zampini che è lì che se la ride. No. Io ti dico la verità, ho visto distrattamente Inter Lazio, non ho visto la tutta Inter. No, ma secondo me ha rischiato. Quello che dice Zampini non va mai preso in considerazione. Ha visto distrattamente, era appollaiato come è giusto che sia, Massimo. Secondo me ha rischiato dietro mi è parsa più fragile di quello che credo possa essere, che dimostra il campionato con questa striscia inarrestabile di vittorie che non tende a fermarsi e non si fermerà. Ci ho detto, è vero che quella portava in semifinale, però l'Inter c'ha una finale a giocare tra 3 giorni, e quindi secondo me anche tra 2 giorni, quindi la vera finale è quella per loro, e quindi secondo me ha fatto bene a risparmiare qualcosa. Tu ritieni questo, però è un sacco di giocatori che si stanno lanciando, anche della Juve, no? C'è anche Higuain, insomma, sta caricando giustamente la squadra, perché insomma, non penso che sia una partita normalissima, no? Cioè nel senso Juve-Inter... Penso che sia una partita come giustamente mai alzare un dito, ma bisognerebbe essere degli idioti, degli sfigati, alzare un dito però insomma è una partita dove ci sono giustamente gli sfottò, dove c'è una rivalità e c'è, scherzi a parte, ora parlando seriamente, grande rispetto, e qua lo dico senza ironia, per l'Inter che sta nascendo ora, non è questo, non è per giocare, ma è un'Inter solida, tosta che sta quando fai una striscia di 5, 6, non so quanti ti manca solo di dire che sono dimagrito. Pierluigi, fratello mio, aiutami a mettere ordine tra questi due bugiardi. È possibile? No, ma sono stati tutti e due sinceri. L'Inter ovviamente qualche preoccupazione adesso la crea, credo, agli occhi di Zampini, perché la squadra che viene a 7 vittorie consecutive e che deve essere guardata con grande rispetto, e in prospettiva, ne parlavamo anche con Bagnazzo, questo è un progetto che sta crescendo, quindi certamente. Se parliamo dei prossimi anni, insomma, se dovessi dirti sinceramente la squadra che potenzialmente può essere, per quello che si vede oggi, dal punto di vista societario, più forte nei prossimi anni per sfidare la Juve, ti dico lì. E sono d'accordo con te, ma ragazzi vi chiedo, quanto vale la sfida di domenica? Cioè, vale, l'Inter... Per me, posso dire, per me vale, è chiaro che per i tifosi è un altro discorso, per l'Inter vale molto meno di Inter-Lazio. Cioè, esattamente, diciamo, è quello che dico anch'io, vale molto meno di Inter-Lazio, perché l'Inter può andare a perdere a Torino... Non è che l'Inter ha deciso di perdere, cioè, no, non ha deciso di perdere, però dai un turnover. È come il discorso di Spalletti a Genova ha fatto turnover in difesa sperando di vincere comunque, di riuscire a far rifiatare Manolas, dare minuti a Vermaelen, cioè il turnover lo fai perché speri che tutto ti vada bene contro Cesena. L'ha fatto anche Allegri il turnover. Quindi all'Inter 11 sono e 11 devono giocare. In questo momento sì, secondo 11 me. Sono e 11 devono giocare. No, 11 non sono, ma in questo momento 11, quegli 11 devono giocare. Io credo che tutte le ha vinto la Lazio, che è una signora squadra della parte alta della classifica, e Inter-Lazio è una partita giocabile. Il famoso Inter-Lazio 3-0 di prima di Natale, che nel secondo tempo è stato un massacro, nel primo tempo poteva essere un massacro a favore della Lazio, che ha avuto tre palle gol nitide, se ve la ricordate. Quindi parlando, cioè, Inter-Lazio era una partita che meritava forse di fare meno turnover, ma poi in realtà il turnover l'ha fatto essenzialmente su Icardi, nel senso che poi l'intelaiatura della squadra era quella. Gli altri titolari erano, Io credo molto che quando tu arrivi a febbraio, ogni squadra, ma non solo l'Inter, guardate anche la Juventus, guardate il Napoli, guardate la Roma, i titolari sono 14-15 ed è un gruppo che più o meno si alterna. Ora, dire che Kondogbia sia una riserva non ha fatto giocare un ragazzo, Giovanni, della primavera. In questo momento, vai con Gagliardini, che è titolare, con Kondogbia sta giocando benissimo. Banega lo lasci seduto, infatti anche l'altra sera ha deluso, e vai con Joao Mario. Quanto vale, allora, per chiudere con Ciccio Valenti e Massimo Zampini, una partita di domenica? È una partita che vale per la classifica relativamente, l'Inter può anche serenamente perderla allo Stadium, che è terra proibita per tutti, però ho l'impressione che sia una partita che valga molto, molto per l'Inter e anche per la Juventus dal punto di vista delle motivazioni che può regalare. No, sono d'accordissimo anche sull'analisi di Pierluigi, però a tifare i tifosi non sono fatti, non sono in giacca e cravatta, ragionieri. che vanno a calibrare, cioè hanno un'emotività molto forte, quindi nel momento in cui tu dici che esiste Juve-Inter, al di là che personalmente Milano, la rivalità vera, il vero derby è col Milan, però insomma Juve-Inter ha in questo momento un significato, cioè parliamoci chiaro, due mesi fa il significato era Inter-Empoli, ma per un altro motivo, cioè il significato erano altre partite, far punti in qualsiasi maniera. Adesso c'è la possibilità, dopo 7 vittorie, di andare a giocare, cioè in termini pokeristici si direbbe vai in all-in, senso te la giochi, te la giochi per questa sfida. Poi come tutte le grandi sfide da all-in, ci può essere anche l'episodio, la fortuna, la sfortuna, insomma tante cose, però secondo me è bello che ci sia il brivido di questa partita, questo mi sembra normale da amante del calcio e da amante di tutti i tifosi. Massimo Zampini, senti lo spirito di rivalsa? Quello meno, diciamo, rivalsa abbiamo perso l'andata, dominata dall'Inter secondo me anche al di là del punteggio, però ora rivalsa abbiamo avuto tante soddisfazioni in questi anni. Non direi questo, ma penso sia una partita importante per tutte e due, perché si sottovaluta che l'Inter può ancora puntare al terzo posto. Questo assolutamente. E se vinci, secondo me è un segnale forte anche a quelle due davanti a loro, a Napoli e Roma. Quindi io credo che per noi ovviamente è importante per mantenere il primo posto con quella distanza. Quindi è una partita importante, aggiungo, perché poi scherziamo con Ciccio e tutto il resto, che è bello che vada Zhang, il piccolo Zhang, a Torino, dopo tanti anni da un dirigente, e credo, spero, ma sono assolutamente certo che verrà trattato con massimo rispetto, e vorrei che fosse sempre così, insomma, è normale che i dirigenti juventini e interisti andassero nell'altro stadio senza nessun problema. Capito. Sì, piccolo Zaire, che... mi permetto di dire che potrebbe comprare te, me, tutte le nostre famiglie con la mancetta settimanale. Certo. Non c'è dubbio. Non toccate la potenza del sonino, Ciccio Valenti, perché... Oh mio Dio. Non c'è dubbio, noi siamo... disponibile. No, in 20 secondi è molto bella questa cosa, secondo me è anche in qualche modo un segno che una fase, un'era geologica è passata, almeno dal punto di vista societario. E quello che dice Ciccio, con il quale sono perfettamente d'accordo, ma alla fine è la dimostrazione della bellezza del calcio, nel senso che razionalmente parlando sono veri tutti i discorsi che abbiamo fatto, addirittura Juve-Inter, forse per l'Inter è la partita tra virgolette più inutile, no? Bravo, se Pier, sia bravo, la classica, bravo, la classica, bravo, partita, bravo, che se pure perdi non succede, bravo, niente, bravo, però vanno a dire i tifosi, no? E quindi no, viva Dio, perché ecco, ci mancherebbe altro. Grazie ragazzi, grazie Ciccio, grazie Massimo, ci sentiamo un presto. Un abbraccio, ciao. Noi ci fermiamo per la borsa 800240024, numero verde per contattarci, messaggi WhatsApp 349-238-6666. Tutti convocati. Ti piacerebbe entrare davvero nella caverna di Platone? Radio 24 con Alessandro Milan e Leonardo Manera ti aspettano domenica 5 febbraio al Teatro Manzoni di Milano per ridere e divertirsi con l'attualità. Platone, la caverna dell'informazione, il lato comico dell'attualità. Tutte le info su radio24.it e teatromanzoni.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta 30 secondi della vostra attenzione, per favore, perché dal 1 febbraio Cuore Denari inaugura La Salute Viene Parlando. Sottotitolo: I mesi della prevenzione. Un viaggio con gli specialisti di Humanitas lungo tutto il corpo umano per imparare a investire in salute. E per ottenere rendimenti sicuri. Ascoltateci ogni giorno allora, dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12. Su Radio 24. Convocati. Allora, ecco che rientriamo con Giovanni Capuano, che è qui con me in studio, e Pierluigi Pardo, che si stanno affilando le armi per il gran duello della schedina che avverrà a fine ora. Ragazzi, lo so che state friggendo, ma io vi tengo lì a friggere. E saluto il dottor professor Gran Loop Man Maurizio Crosetti da Repubblica. Soprattutto l'ultimo, buongiorno cari. Gran Loop Man. Beh, senti, anche Phil Putman, quello no, bene, l'hai lasciato perdere per eleganza. Però sarebbe il più adatto nel mio caso. Senti, poi ci sentiamo settimana prossima, Stretto Giro di Posta, perché è il vigilione di un sacco di cose. Però io volevo sforcugliarti sugli argomenti della settimana. Il primo è questo: la settimana degli Eterni che tramontano, e abbiamo aperto il programma sottolineando il Sunset Boulevard ormai ufficiale di Lampard e Ronaldinho. A proposito, per inciso, come giocatori diversi, ma preferisci Lampard o Ronaldinho così nella storia? Perché qui c'è un dibattito. Senti, preferisco tutto, preferisco il marron glacé e preferisco anche la meringata, nel senso che Ronaldinho ci ha fatto divertire tanto e appartiene alla categoria di fuoriclasse. Sì. Lampard ha dato tantissima sostanza, è un fuoriclasse anche lui, ma come dire, più di, ripeto, più di sostanza che magari di guizzo, di classe, ma è stato una leggenda del calcio inglese, non solo del Chelsea. Quindi io piglio tutto, nello sport secondo me bisogna essere onnivori. Va bene, questa risposta democristiana. Vabbè, lanciamo sì, il tema del momento. Dorotea. No, ci sono gli Eterni che tramontano e quelli che invece assolutamente no. Abbiamo aperto la settimana con Federer, poi Totti, che ogni volta che lo mettono in campo ci regala pure da fermo, pure in qualunque ruolo qualche perla di saggezza calcistica. È l'Ardai che potrebbe vincere la Coppa d'Africa, però magari è dalla parte sbagliata, perché allenatore Hector Cooper, poi insomma è stata la settimana anche degli intramontabili. Voce di Spalletti. Lui quando gioca le partite è veramente quando lo butti dentro, sia in allenamento, sia quando gioca con suo figlio, sia per una qualificazione, per una semifinale, lui è veramente il Mohamed Ali del calcio, cioè lui tenta sempre il colpo del KO, lui tenta sempre quella giocata importante che poi gli altri a volte non vedono, ecco. E se gioca lui, ebbene dagliela. Allora, Maurizio Cosetti, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, il Mohamed Ali del calcio riferito a Totti e tanta roba. Beh, verrebbe subito da dire che in effetti Totti ha desiderato molto far fare a Spalletti la fine di Foreman, peraltro, quindi ci sta, no, scherza. A parte gli scherzi, è chiaro che un nome come quello di Mohamed Ali va usato con grande riguardo e con grande parsimonia, ma il concetto è quello, no? Il concetto è un pochino quello, anche se uno ha cambiato la storia, forse anche un po' del mondo, un pochino sì, del Novecento, sì, di sicuro. Sì. Totti non è arrivato fin lì, ha cambiato la storia del calcio a Roma e anche del calcio italiano, perché potrebbe anche essere, e se la gioca con pochissimi altri, il più grande calciatore del dopoguerra, e la butto lì, potrebbe essere, potrebbe anche essere. Potrebbe essere, secondo me. Potrebbe essere, sì. E quindi nel rapporto geografico e storico della nostra realtà rispetto a quella della galassia, non è Mohamed Ali, ma è di quello stampo lì. E per quanto riguarda gli eterni, sappiamo già chi sarà protagonista di Juve Inter a questo punto, per o Zanetti o Buffon. Solo che uno gioca e l'altro no. No, gioca Zanetti, giochi Zanetti. Pare giochi Zanetti, hai capito? Sì, perché c'è un'agenzia qua che dice che gioca Zanetti. Gioca Zanetti, vabbè. No, su Totti, vabbè, abbiamo parlato mille volte. Non raccogli il più grande calciatore del dopoguerra, io sì. Più grande calciatore del dopoguerra in Italia o nel mondo? No, in Italia. No, in Italia. No, mi sembra, non lo so. Non sai. Ma appunto, parliamone, già il fatto che se ne possa parlare mi sembra abbastanza importante e lusinghiero, non so, fra lui, Baggio, Riva, poi ce ne sono alcuni che probabilmente non abbiamo conosciuto, io Riva non lo so, l'ho letto, l'ho visto, l'ho raccontato, però insomma, se stiamo parlando, di che discutiamo? Totti è veramente una leggenda, e credo che il fatto di essersi legato alla sua città, alla sua squadra, ne abbia, da un lato probabilmente gli ha tolto qualche trofeo, ma dall'altro gli ha dato invece secondo me un'immagine, un carisma, un brand, uso una parola orribile, meraviglioso, indiscutibile, di una persona fedele. La vera notizia è sentir parlare così Spalletti di Totti, ma non perché Spalletti avesse problemi con Totti l'anno scorso in maniera particolare. Io non ho mai creduto troppo ai personalismi, io ho creduto alla necessità di instaurare un rapporto normale, e oggi il rapporto normale c'è, perché Totti non fa mezza polemica, quando entra si fa sempre trovare pronto. Io credo che il meglio Totti lo dia non nelle partite dove comincia dall'inizio, che sono ormai rarissime come quella con Cesena, sì, ma le partite nelle quali veramente, come si è visto per esempio a Udine o anche a Genova, lui entra a 20 dalla fine e la giocata c'è, no, sempre. No, sicuro, ma è di questo quindi, che stiamo discutendo. È chiaro che il ritmo partita, il ritmo dei 90 minuti non è facilissimo, insomma, ma questo lo sa anche Francesco, credo. No, no, dire, ma guarda, è comunque una considerazione che io e Giovanni facciamo tutte le domeniche che siamo qui a guardare le partite. Sì, lui entra da fermo, no, 20 minuti mette due palloni. Bravissimo, esatto. È ovvio che ma anche a Marassi con la Samp. Anche a Marassi con la Samp. Il calcio, che è uno sport dove gli episodi contano, dove le giocate speciali contano, è uno sport che aiuta giocatori di questo tipo, perché a differenza di altri, la pallacanestro devi fare 18 tiri, avere un 60-70% di percentuale, hai fatto una buona partita e sei stato decisivo. Nel basket, nel calcio invece, l'episodio è fondamentale, è quindi avere un giocatore che anche a 10 dalla fine ha sempre nei suoi piedi la giocata geniale, può diventare un'arma importante, e in qualche modo lo è. Certo, c'è un plebiscito per Rivera, ci sono scatenati da casa, 3-4-9-2-3-8-6-6-6. Il dopoguerra non lo so, però è in quella categoria lì, capito? Sì, è in quella categoria lì. Essere fra quei 4-5 vuol dire ovviamente, insomma. Però dai, facciamoli 4-5. Rivera di sicuro, forse anche Mazzola, Del Piero, Maldini. Vogliamo metterci Buffon? Io non so se Totti sta... No, siamo a 5. Io non ho ancora nominato Totti. Ci dobbiamo mettere, sicuramente ci dobbiamo mettere Scirea. Scirea, e siamo a 6. Ma Totti, non ce lo mettiamo Totti, tutti però... per 25. Mancini, io ero pazzo di Mancini. No, secondo me Mancini non è nello stesso elenco di questi. Anche secondo me non è nello stesso elenco di questi. Per me nell'elenco di questi appunto c'è Riva, Rivera, Maldini, Totti, Buffon, sono questi qua. Poi forse adesso mi scordo qualcuno, però siamo in questo in quest'ordine in questo range, qui. In questo range. Baggio, non so, boh. Allora, vabbè ragazzi, mentre ci pensiamo, andiamo con... mi mostrano un cartellino giallo perché ho altri due argomenti da trattare con la presenza di Crosetti. Mi mostrano un giallo, andiamo con la viabilità e torniamo subito. Tutti convocati. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta... Convocati. Allora non fate curiosi, lasciate fluire il traffico, intanto ascoltate dall'auto tutti convocati, sempre Maurizio Crosetti, Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano qui con me. Secondo tema che volevo inquadrare nell'audio forum, nuovo stop allo stadio, stop and go, mettiamola così, al nuovo stadio di Roma. Intanto diplomazia al lavoro per eliminare le barriere dall'Olimpico. Spalletti. Dico che è la verità, nel senso che sono amico suo, però poi... No, dico che si è speso per il lavoro questo. Sicuramente l'ha fatto Lotti e il ministro degli interni Minniti, perché sono loro che... Lei è fiducioso? No, io sono fiducioso perché ho questo senso di libertà e le barriere non sono sicuramente portatrici di questo dono, ecco. Così la pensi anche tu, Pierluigi? Questo è il tuo pensiero. Beh, ne abbiamo parlato lungamente ieri. Controllo le barriere, credo che siano dal punto di vista simbolico una disparità rispetto ad altri posti d'Italia, e credo che in generale siamo di fronte a una grande opportunità, cioè questo doppio derby in più di Coppa Italia è una prova, è chiaro che è anche un rischio, però è il momento secondo me di togliere queste barriere, di andare dalle tifoserie organizzate, chiedere un senso di responsabilità che dovrebbe sempre esserci. E ovviamente poi chi sgarra paga, su questo non ci sono dubbi. Ieri ne sono arrivati 1000 messaggi, non è che sono filo ultra. Io penso che nel mondo ultra, come ho detto 1000 volte, ci siano, come in tutti gli altri settori della vita, cose buone e cose meno buone, che le persone si giudichino individualmente, personalmente per quello che fanno, e che questa sia una grande opportunità, perché l'alternativa è che gli stadi li chiudiamo e diciamo va bene, facciamo gli stadi chiusi, e così non succede, ci sono, e non ci sono niente. Siccome non invece io credo che ci siano dei valori importanti anche nelle curve, è il momento di coinvolgerle, responsabilizzarle, e ci auguriamo che tutto vada bene. E anche il tuo pensiero, bene, Maurizio? Sì, assolutamente, via le barriere, via le persone che qualche volta sembra che le rendano necessarie, e se poi si corre qualche rischio, a Roma si può sempre stipulare una polizza, peraltro. o magari ce l'hai già, Maurizio. No, magari lo stadio, io credo che lo stadio Olimpico abbia una polizza a sua insaputa, in realtà. No, però secondo me il discorso è questo. Siccome le barriere sono state messe perché c'era una situazione di mancanza di controllo che era nei fatti, se la notizia è che la situazione di normalità è stata ristabilita, è un'ottima notizia. Se si tratta di un intervento della politica, perché sappiamo spesso ci sono pezzi della politica che hanno rapporti privilegiati, allora non è una buona notizia. Il controllo nelle altre curve italiane invece il discorso non è lo stesso. Cioè, no, però è anche vero, Pier, che a Roma negli anni precedenti avvenivano fatti che altrove non avvenivano, e le puccicate che altrove non succedevano. No, ma le puccicate si va, uno stato forte va da chi fa le puccicate e lo arresta. Gli dà le pene severe che sono giuste, perché se accoltelli uno a Piazza del Popolo, in Piazza Duomo a Milano, spero che ti diano una pena severa e esemplare. Ma non è che penalizzi a prescindere decine di migliaia di persone con un provvedimento che poi vorrei capire. No, però voglio dire, l'hanno detto i tecnici, quelli della questura, i tecnici che si occupano di questa cosa, che dentro quella curva non c'era più possibilità di avere nessun tipo di presidio, di controllo. Ma magari succede anche da altre parti, io non lo so. Ma ripeto, se tolgono le barriere, perché comunque, dopo 2 anni così la situazione è migliorata, è un'ottima notizia per tutti. Ma sicuro. Però che sia lascio, questo... aspettate ragazzi, lascio la chiusura cross al di là delle polizze e poi cambiamo argomento. No, ma io sono d'accordissimo con Pierluigi, non si può bollare un luogo, uno stadio, una città, una tifoseria come se avessero un marchio di infamia, ma non si può nemmeno tollerare che la ripetizione, la reiterazione di certi episodi obblighi quasi a non poter più giocare le partite e i derby di sera, di notte. La Coppa Italia sarà sicuramente un banco di prova importante, sì, sì, via i pregiudizi, ma via anche le eccessive tolleranze. I tifosi che sgarrano, ormai li si fotografa, ti danno anche il codice a barre dell'ultra. E non solo dell'ultra, che non è che sgarrano solo gli ultra. Quante monetine vi sottirate nel cosiddette tribune d'onore? Non avete idea. Monetine, accendine, abbiamo un'ampia storiografia su questo. Frisch, questo. La famosa monetina Frisch venne lanciata dalla tribuna d'onore. L'accendino a Frisch venne lanciato dalla tribuna d'onore. Ma non è... Questo lo sappiamo. Ragazzi, cambiamo argomento che siamo di corsa. Allora, ritorniamo sulla partitona. Inter Juventus, ma pretesto è quello di sentire la voce di Pioli che ha appena parlato. La Juventus è una squadra forte, lo dicono i numeri, lo dicono i risultati, lo dice la mentalità che hanno, i giocatori, l'allenatore, quindi sicuramente è la squadra più forte d'Italia. Ma credo che se ci sono delle squadre che possono mettere in difficoltà, questa una possiamo esserne sicuramente noi, quindi loro hanno le loro qualità e le metteranno sicuramente in campo e noi faremo altrettanto cercando di provare a far meglio di loro. Allora Maurizio, noi ne abbiamo già parlato a lungo prima, paradossalmente per l'Inter è una partita che in termini di classifica non vale moltissimo, ci siamo divisi sul fatto che Pioli abbia fatto turnover l'altra sera, l'assenza di Icardi è stata comunque determinante e ha dato un segnale alla squadra. Per l'Inter è comunque una partita fondamentale, Pioli l'ha dimostrato e l'ha detto anche adesso, per la sua autostima. È il ritorno in una situazione che sembrava completamente perduta e non raggiungibile in tempi brevi. Cioè l'Inter adesso sta dove si pensava che potesse stare, considerando l'organico, considerando il lavoro fatto, gli investimenti, dopo l'incidente di percorso, e anche su questo se ne è parlato tanto, la scelta forse sbagliata, di sicuro l'impossibilità di potersela concedere, di potersela permettere, quindi dare a lui il tempo, a De Boer il tempo per realizzare quelli che erano i suoi progetti. Quindi al netto di tutte queste cose l'Inter è tornata dove, personalmente non lo dico adesso ma lo dicevo anche a settembre, immaginavo potesse essere, guardando, ripeto, l'organico e la spina dorsale della squadra, quella cosa che comincia dal portiere, passa dalla mediana e dai centrali e arriva al centravanti, e in tutti questi ruoli l'Inter è a posto. E quindi credo che possa essere una partita ben più importante che non per la classifica. Questa è una partita che dà all'Inter una dimensione futura. Esatto. Ci troviamo tutti d'accordo su questo aspetto, io credo. Ti ringrazio, Maurizio. Grazie a voi. Volevo sentire da Cross, volevo dire anche la mia, perché l'avevi in qualche modo annunciato, il discorso sullo stadio della Roma. Perché quello che è successo ieri è abbastanza inquietante. Cioè adesso, da quello che ho capito, leggendo i giornali stamattina, se nel prossimo mese non si trova una quadra, e al momento sembra molto difficile trovare una quadra perché il Comune ha un parere fortemente negativo, finisce. E, insomma, sarebbe un'occasione persa, secondo me, riguarda Roma, ma il discorso riguarda anche le altre città. Se noi vogliamo competere a livello internazionale con i grandi club, dobbiamo fare gli stadi o sistemare quelli che ci sono e renderli moderni, come nel caso dello stadio della Juve. Non c'è un'alternativa, servono investimenti, gli investimenti portano lavoro. Se noi ci facciamo inghiottire dalla burocrazia, che per carità è una cosa importante perché le regole ci devono essere tutelate, però se poi alla fine questo diventa un pretesto per non fare le cose, secondo me perdiamo l'ennesima grande opportunità, e guardare, ne abbiamo perse tante rispetto a io mantengo il mio incrollabile pessimismo sulla possibilità di fare stadi nuovi in Italia. Maurizio. No, io non posso essere pessimista perché vivo a Torino e ho visto cos'è successo con lo stadio della Juve, però ho anche visto che le cubature sono stati attenti, poi con i privati forse è più facile. Sappiamo che spesso la speculazione edilizia non è solo un bellissimo racconto lungo di Italo Calvino profetico che andrebbe sempre riletto, ma è un'eventualità concreta, ma non è una buona ragione per non fare le cose. Per questa buona o pessima ragione sono state perse le Olimpiadi o l'occasione che potevano rappresentare, rischi annessi. Ma allora, se stiamo fermi solo perché abbiamo paura, si bloccano tutte le amministrazioni, tutta la politica, tutte le macchine cittadine, qualunque cosa non si fa perché poi magari qualcuno ruba, e non è accettabile questo. Grazie, ma Maurizio. Soprattutto lo dico con grandissimo rispetto, perché poi adesso ovviamente ci sono le vicende delle ultime ore, però un movimento e un sindaco che dice onestà, insomma, io ho proprio la curiosità di vedere se riesce, e mi auguro che sia possibile, a gestire il processo in maniera positiva. Intanto ha chiesto un mese di tempo, è stato chiesto un mese di supplementare. Però, insomma, leggendo i giornali di oggi abbiamo capito che se non, insomma, ad oggi è più no che sì. Ad oggi è più no che sì. Di chi ne sa più di me leggendo i giornali, e sarebbe un peccato. Poi voglio dire, insomma, se poi, tutto si può fare nella vita, ma se poi un mese diventa un anno, allora tra un mese siamo qui ad aspettare la risposta. Oggi è il 3 di febbraio, è stato chiesto un mese di tempo. Come, e dunque, il closing del Milan. Come il closing del Milan, e infatti entrambe le cose secondo me sono ampiamente. Pierluigi, ti devo chiedere un supplementare di 3 minuti per la schedina, perché oggi è. Va bene, facciamo così, facciamo le 15.05. Dai. 15.05, dai. Tutti convocati. Tutti convocati. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Tutti convocati. Allora, i ragazzi si sono presi 5 minuti di supplementare per riflettere più a lungo sulla schedina. La verità è questa, ve la dico io. Io ho fatto le faticante. Avevo incertezze su Empoli Toro. Non so neanche le partite. Non è vero. Allora andiamo ora. Non è vero. La schedina, poi passiamo, salutiamo Pardo, passiamo oltre. Ragazzi, Bologna, vai. Napoli, domani 20:45. Due fisso. Milan-Sampdoria, 12:30 di domenica. Uno fisso. X. Attento alla Sampdoria, parla. Atalanta-Cagliari. Uno, io direi. Uno. Chievo-Udinese. Chievo-Udinese, io ti dico uno. X hai detto, Pier? X. Sì, X. Empoli-Torino. Vai. Allora? Dai. No, io ti dico pareggio. Ti dico X. Pareggio perché X. È venuta proprio. Si è messo sulla difensiva. Una partita a scacchi. Genoa-Sassuolo. Uno fisso. 1-1. Pescara-Lazio. 2. Palermo-Crotone. 2. Io ti dico 1. Tu Pierluigi 2? 2-1. E qui siamo. Juventus-Inter. Per me vince la Juve. 1. Anche per me. Quel classico 1-0. Martedì si giocherà con largo posticipo Roma-Fiorentina. Diamo anche questo pronostico, già che ci siamo. Certo. Certo. Diamolo. Quindi? Per me è X. Per me è 1. Ok, perfetto. Schedina. Ricordiamo fatta. Anche che siamo 3-2 per me. Più qualche pareggio. Ma cosa 3-2 per te? Ma cosa? Da dove viene fuori adesso sta roba qui? No, è. Domenico, io non mi infilo nella contesa, tanto io ho Giorgio De Luca che mette la cera lacca ai timbri dove devono essere messi. Ma che povertà, mai avrei dovuto pensare di ascoltare il signor Capuano dire una castroneria simile. Dai. Adesso facciamo il conto. Ciao Pierluigi. Sentiamo domenica. Ciao Pier. Ciao. Grazie Pierluigi Pardo, ci ritroveremo domenica, ovviamente tutti convocati weekend con Giovanni Capuano e sottoscritto a dare una mano, e grande protagonista sarà ovviamente il rugby oltre a Super Bowl che verrà. Però prima vorrei fare questa digressione, perché ieri sera c'è stata un'altra partita incredibile di Eurolega dell'Armani contro il Darussafaka, che stava stravincendo questa gara più 25 nel terzo quarto, e poi una di quelle rimonte che ti ricordi per lungo tempo. È finita 89-87 per Milano, con di nuovo Dado Pascolo, grandissimo protagonista, con Simon, grandissimo protagonista, e con Repesa che ha parlato così. Sono soddisfatto perché abbiamo vinto e faccio complimenti alla squadra. Non era facile ribaltare una partita come onestamente non funzionava nulla. Ma in stesso tempo la cosa che è più importante, se prendiamo una lezione da questa partita, come si deve giocare, come abbiamo giocato gli ultimi 12-13 minuti, e come non si deve giocare, come abbiamo giocato 27-28 minuti, può essere una partita molto utile per il nostro futuro. E sono tre le vittorie, mancano 9 partite, sono tre le vittorie che dividono Milano dalla zona playoff. Ovviamente si sta ancora pagando il conto a quelle 10 sconfitte consecutive subite, ma c'è stato anche il tempo di un battibecco tra Repesa e la platea dei giornalisti. Io guardo ogni volta bicchiere mezzo pieno, no, come tu mezzo vuoto, sai? Perché quando siete bravi così, perché c'è Jokic in NBA? 95, perché c'è Šarić, avete visto l'altro ieri contro come Magic Johnson, perché c'è Porzingis, c'è italiani, dobbiamo fare. Repesa ha fatto tanti e farà tantissimi, perché ci crede solo in palestra e lavoro. Se qualcuno pensa che può fare meglio, benvenuto, volentieri, ho fatto tanto, ma ho voglia e energia fare di più. Questo Jasmine Repesa dunque per questa vittoria dell'Armani nell'Eurolega. Allora andiamo di corsissima, Giacomo Bagnasco, l'uomo del rugby. Allora cominciamo con il Galles e con, insomma, direi buoni presentimenti. Ti avverto che è già in linea Giampiero Ciccio De Carli, che è allenatore della mischia italiana. Ciao Giacomo. Ciao, buongiorno. Da dove vuoi partire? Buon Sei Nazioni. Buon Sei Nazioni. Voglio partire dal fatto che siamo contenti che cominci, che questo Sei Nazioni per gli appassionati del rugby è come il carnevale per i bambini, gli accorcia l'inverno. Quando siamo stufi dell'inverno arriva questa cosa e ci porta alla primavera. Sempre un po' inverno è per i risultati degli italiani, che hanno vinto 12 partite su 85, più un pareggio negli incontri disputati finora. E questo Galles, a livello di statistica, potrebbe darci qualche piccola speranza, nel senso che è la squadra che comincia peggio il Sei Nazioni a livello di punti subiti, mentre l'Italia è quella che in relazione alle partite che gioca, proprio nella prima partita riesce a subire meno punti. Vedremo se anche questo può servire. Giampiero De Carli, sarà la mischia l'ago della bilancia, come tante volte è successo? Buongiorno. Ciao. me lo auguro, ma non solo per la mischia, per il fatto che la nostra sarà una partita, e come dicevate voi, molto molto difficile, però l'abbiamo preparata con un po' di tempo in più, abbiamo lavorato duramente e pensiamo bene. Quello che è importante è riuscire a rimanere in partita dall'inizio alla fine. Allora, con queste prospettive potrebbe arrivare un risultato positivo, ma se perdiamo il nocciolo della partita, potremmo rischiare un brutto risultato. Io però vi dico, i test di autunno hanno dato il segno di un'aria cambiata con Oshì. Ora, De Carli è un suo collaboratore, Giacomo Bagnasco conosce bene l'ambiente rugby, cosa dite, Giacomo? Ah, sì, soprattutto è venuta una vittoria contro il Sudafrica che da sola ha un valore molto alto. Mi sembra di capire che ci sia grande convinzione nei metodi del nuovo commissario tecnico. Poi è chiaro che tante volte il commissario tecnico dell'Italia, sempre uno straniero da quando c'è il Sei Nazioni, arriva e dopo un paio di anni allarga le braccia e dice: io più di così non riesco a fare. Speriamo che non sia questo il caso, e lo chiediamo anche a De Carli. Però vorrei dire che De Carli è anche un talismano, come scriviamo oggi sul sito del Sole, che ha cominciato il suo speciale sul Sei Nazioni, perché la prima meta del Sei Nazioni in assoluto dell'Italia alla Scozia l'ha segnata De Carli, e nella seconda vittoria del Sei Nazioni, prima volta che l'Italia ha battuto il Galles nel 2003, ha segnato di nuovo De Carli la prima meta dell'incontro. E stavolta deve spiegare come si fa. Non va in campo, ma in panchina. Ciao, no, diciamo che questa volta non la potrò segnare io, questo, no, è questo sicuro. No. No, devo dire che con Connor in questo momento stiamo facendo un lavoro a tutto tondo, sia sul piano fisico, sul piano mentale, sul piano tecnico. E poi stiamo cercando, come dice lui spesso, insomma, di allargare il nostro bacino. Noi ogni settimana ci incontriamo, andiamo in giro per tutte le società di eccellenza e quindi stiamo cercando, come dire, primo di farci vedere, secondo di conoscere quelle che sono le esigenze delle squadre, quali sono i giocatori in prospettiva futura. Quindi è un lavoro che sta facendo. Io sono, lo dico con una certa sicurezza, non credo che Connor abbasserà le braccia tra qualche anno, e dire il vero non credo che tanti altri poi le abbiano veramente abbassate. Poi alcune circostanze effettivamente a volte sono difficili da vivere. Però mi sembra che sia cambiato tutto in profondità, che sia cambiato, lasciami dire, il sistema. È così? Ma allora, io facevo oggi un esempio a un altro vostro collega, ma i primi comunque, no, beh, a parte che io non è che devo dipendere nessuno assolutamente, però voglio, ricordiamoci i primi 2 anni di Brunello, sono stati 2 anni di grandissimo rugby, di bellissime vittorie, eccetera. Quindi voglio dire, ogni metodo, ogni sistema può funzionare, poi dipende quello che succede in questa strada, in questi anni in cui si lavora. Diciamo che poi negli altri anni ci sono state delle difficoltà, io mi auguro, perché ci sono anch'io dentro in questo momento, che questo, intanto dobbiamo ancora cominciare effettivamente a parte novembre la tournée di giugno, però mi auguro che possa essere un inizio positivo e soprattutto una continuità importante. Grazie Ciccio, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie, grazie a voi. Gianpiero De Carli. Ogni tanto viene il sospetto che il nostro rugby però sia arrivato al punto massimo. No, ma poi soprattutto adesso intorno. Soprattutto adesso c'è anche il problema di dire che è bisogno nazionale, Giovanni, perché sono anni che raccontiamo le partite di giocatori che ci stanno nel cuore, che però fatalmente vale anche per loro la carta d'identità, mica solo per Lampard e Ronaldinho. Sì, sicuramente De Carli anche di questo ha parlato nella chiacchierata che abbiamo fatto ieri, dicendo che la mischia aveva prima alcuni giocatori che erano sicuramente tra i migliori al mondo nel loro ruolo, adesso c'è Parisse che è sicuramente uno dei più forti del mondo, c'è una serie di giocatori esperti importanti e poi ci sono dei giovani da far crescere. Visto che è iniziato un nuovo ciclo, va benissimo così, certo, piuttosto certo. Con riferimento a Brunel, e con tutto il rispetto per Brunel, probabilmente era giusto che il ciclo di Brunel finisse nel 2015, quando erano finiti i mondiali. Sono d'accordo questo con te, Giacomo, sì. L'abbiamo detto molte volte. Ci sentiamo ovviamente per questo Sei Nazioni, ti ringrazio. Volentieri. Ti ringrazio. Intanto, insomma, chiederei anche io i supplementari in questi giorni, perché non riesco a parlare con gli ascoltatori causa tempo e causa argomenti da trattare. Claudio, buongiorno. Sì, buon pomeriggio, signor Genta. Dica. Mi permette di ritornare solo un attimo sulla questione stadio della Roma? Certo. A me dispiace molto che due professionisti come lei e il signor Pardo avete attaccato così proprio in maniera abbastanza netta la decisione facciamo i nomi della Raggi di temporeggiare sullo stadio della Roma e agganciandomi anche al discorso delle Olimpiadi, perché per un motivo semplice, cioè i romani hanno scelto, la Raggi aveva detto in campagna elettorale di non volere le Olimpiadi, il 70% dei romani l'hanno votata, se avessero voluto le Olimpiadi non l'avrebbero votata. Vabbè, però magari l'hanno votata rispetto, anche per altre ragioni. Maggiore, insomma, anche la battuta sulla polizza del dottor Crosetti, cioè, mi è sembrata un pochino, soprattutto l'avranno anche frangente, votata poco, per altre ragioni, poco. Anche per altre ragioni, non solo per il fatto che aveva in campagna elettorale, aveva messo tra i suoi argomenti il no alle Olimpiadi. Ci ha raggiunti Giuseppe Cruciani, che è il massimo esperto vivente di Super Bowl. Beh, insomma, massimo no, insomma, uno tra i massimi. Uno tra i massimi, almeno di lingua italiana. Almeno di lingua italiana. Sì, quello sì. Dimmi questa, anche in lingua inglese. Anche in lingua inglese. Dimmi questa sulla Raggi e poi parliamo del Super Cosa? Bowl. Cosa? Ah, sullo stadio? Sullo stadio. Ma io sono favorevolissimo a procedure non rapide, ultra rapide per costruire gli stadi delle squadre di calcio. Penso che sia la priorità assoluta del calcio italiano. Adesso io, ovviamente, sui progetti si può discutere, eccetera. Di questo progetto se ne è discusso fin troppo. Bloccare adesso questo progetto, a meno che non ci siano cose clamorose, mi sembra ridicolo. Però questa è la mia impressione. Io sono favorevole al fatto addirittura che i comuni cedano i terreni quasi gratis. Gratis, sono d'accordo. Quasi con gratis. Te. Sono d'accordo con te. Intanto, mi diceva Giovanni che sul sito dello stadioroma.it, credo sia una roba del genere. Stadio della Roma, cioè, l'inizio lavori previsto, è previsto inizio, per inizio 2017. Siamo ancora, ma perché è iniziato tutto nel 2012? Siamo veramente al ridicolo. Dai, con i tempi che sono stati impiegati dalle squadre inglesi per realizzare gli stadi, sono imbarazzanti per l'Italia. Dai, allora, posso dire del tuo cappellino con cui sei arrivato oggi in redazione? Sì, il cappellino di Petrus. Io sono tifosissimo dei Petrus, quasi come sono tifoso della Lazio, per cui bene. Poi si vivono di cose con queste cose con maggiore distacco, questo mi sembra evidente. Allora, è chiaro che è l'evento più sportivo più importante al mondo per numeri, cifre, fatturato, come piace dire, come si sa del calcio, come si sa. Si gioca a Houston in Texas per che stadio a proposito di stadio, che stadio c'è l'anno prossimo? Stadio meraviglioso, coperto, tutto coperto. L'anno prossimo si giocherà nel nuovo stadio di Minneapolis. Stiamo parlando di Minneapolis, una città che è, come dire, lontana anni luce da Roma, dalla storia di Roma, eccetera, eccetera, dove hanno costruito uno stadio in pochi anni, uno stadio supersonico, perché si gioca in una città talmente fredda, Minneapolis, talmente, certo, che l'anno prossimo il Super Bowl a gennaio, quando sarà meno 70 fuori, sarà possibile giocarlo lì semplicemente solo per questo. Questa partita perché potrebbero vincere i Patriots, perché gli Atlanta Falcons potrebbero invece fare lo sgarbo alla squadra favorita. Guarda, parlare di cose davanti a un pubblico generalista che si occupa di solo di calcio, parlare di favoriti, perché possono vincere gli uni, perché possono vincere gli altri, è quasi assurdo. Tu andrai a fare la... Io andrò a Fox, Fox a fare il talent dalle 23 in poi, praticamente una specie di lunga 6 ore in televisione, perché più o meno siamo lì, 5 ore, si finirà la partita, inizia a mezzanotte e mezzo, c'è il caso che duri 4 ore, insomma, fino alle 4:20, 4:30, premiazione compresa. I bookmakers hanno favoriti i Patriots semplicemente perché hanno giocato, è il loro settimo Super Bowl, mentre Atlanta è il secondo, ma non ne hanno vinto nessuno, i Patriots ne hanno 24. Però bisogna considerare una cosa che leggevo oggi: tutti i Super Bowl giocati e anche persi dai Patriots hanno avuto un distacco massimo di 3 punti, 4 punti addirittura, di 3-4 punti. Questo significa che hanno sempre giocato Super Bowl molto molto competitivi, cioè non hanno stravinto i Super Bowl. Mm-hmm. Cioè è una giocata alla fine, 3-4 punti. Chiaro, dunque potevano anche perderli tutti i Super Bowl che hanno vinto. Senti, abbiamo in linea anche Simone Sanetti da New York. Sì. Per capire come la sta vivendo lì. Ciao Simone. Buon pomeriggio, ha detto tutto Pardo, non c'è più bisogno di dica niente. Ormai sono Cruciani. È Cruciani. Cruciani. Ah, Cruciani. Sì. Ciao, ciao. Massimo esperto vivente di... No, beh, Massimo esperto vivente In Italia di football americano. Sei d'accordo con lui su quanto hai sentito? Sì, sono d'accordo. Decisamente sono favoriti i Patriots, anche se Atlanta ha paradossalmente il miglior attacco dell'NFL, il secondo miglior attacco è quello di New England, per cui ci si aspetta una partita... sicuramente molto offensiva, con molti punti, con molti punti, con due quarti che probabilmente si giocheranno anche il titolo di premio di MVP della stagione regolare, per cui sono due quarterback, uno straordinario come ovviamente Tom Brady, che è, secondo me, il miglior giocatore nel suo ruolo nella storia del football, e un altro che comunque ha avuto una stagione straordinaria con Matt Ryan di Atlanta, per cui sarà un football così all'insegna dei fuochi artificiali a livello offensivo, per cui vediamo. Quello che succede di sicuro, ha ragione Cruciani, i Patriots sono favoriti per una serie di motivi che secondo me va al di là anche proprio dal discorso tecnico, perché con l'esperienza, con l'acume tattico di Bill Belichick, anche lui forse il più grande allenatore nella storia di questo sport, diciamo che sicuramente bisogna dargli la palma di favoriti ai Patriots. Sì, però Simone ha ragione, per tutto quello che hanno fatto nella storia, anche in questa stagione, i Patriots sono favoriti, ma è one shot. Per cui quando è un one shot, che significa quando è una partita singola, a maggior ragione può succedere l'esperienza di questi eventi. Considera conta, che l'anno scorso erano favoriti i Panthers nella finale dell'anno scorso, e poi persero in maniera abbastanza netta contro i Denver Broncos, una delle partite più brutte della storia del Super Bowl. Penso, anzi sono sicuro, che domenica non sarà la stessa cosa. E non bisogna dimenticarsi che gli stessi Patriots nel 2000, correggimi Simone se sbaglio, credo nel 2008, fecero una finale contro i New York Giants perdendo un Super Bowl dopo aver fatto 18 vittorie consecutive. Cioè sarebbe stata la stagione perfetta con la 19ª vittoria. Cioè avevano vinto tutte le partite della stagione regolare più le due dei playoff. Persero proprio l'ultima partita partendo ovviamente da strafavoriti in quel caso, ma da ultra favoriti. Cioè nessuno avrebbe scommesso un euro sulla vittoria dei Giants. I numeri in questo caso cosa dicono, ragazzi? Beh, i numeri di che tipo? I numeri della stagione? La stagione regolare, credo, Simone, se non sbaglio, che hanno, i Patriots hanno finito 14-2 con due sole sconfitte, o 13-3, adesso non ricordo bene, ma credo 14-2 se non sbaglio, e poi hanno vinto le due partite, dunque siamo a 16-2, sì. E i Falcons una di meno o due di meno sotto, credo 13-3 la stagione regolare se non sbaglio, o 11-4, e sempre due vittorie ovviamente, no Simone, più o meno? Sì, sì, beh, hanno fatto una stagione, i Patriots hanno chiuso con 14-2, considerato il fatto che comunque hanno avuto degli infortuni importanti come Gronkowski, che parliamo di gente, sì, vero, che forse è il miglior giocatore nel suo ruolo, e comunque sono riusciti a praticamente chiudere anche le prime ultime due partite con già la certezza di avere il miglior record nella AFC. Sicuramente credo che sia molto più sorprendente il campionato dei Falcons, che hanno chiuso con 11-5, ma soprattutto era una squadra che a inizio stagione poche avrebbe potuto arrivare al Super Bowl nell'NFC, e soprattutto considerato il campionato che hanno fatto i Cowboys nella regular season, o come hanno giocato i Packers nei playoff. Per cui diciamo che i favoriti anche fino alla fine della regular season non erano i Falcons. Hai perfettamente ragione, e quel Super Bowl me lo ricordo benissimo, a parte che ci sono stato, ma è un Super Bowl che ricordo benissimo, quello della vittoria del 2008, della straordinaria vittoria di quei Giants di Manning, che fecero forse una delle più grandi sorprese sportive della storia dello sport. Sì. Quelli era una squadra veramente spaziale che avrebbe fatto questo record straordinario di 19-0, e tutti erano convinti che ormai era il più era fatto, e invece sì, consideriamo che l'azienda del proprietario dei New England Patriots, che è Kraft, sì, che non è Kraft è il nome della che è un grande impacchettatore di quello che fanno, no, i packages, mi sembra, no, il Kraft, credo, esatto, che e aveva fatto quell'anno, pensa quanto poi la storia può cambiare, la pubblicità, credo, ai suoi prodotti o ai prodotti dell'azienda, con una scritta sulla stagione perfetta, sì. Ma l'aveva fatta prima del Super Bowl, pensa che pollo. Poi mantenne, l'ho letto nei giorni scorsi, in realtà poi in America le cose vanno così, quel tipo di comunicazione che riguardava in quel caso l'azienda, ma era chiaramente collegata alla stagione dei Patriots, fu comunque mantenuta anche dopo. Non è che tra tra i più grandi attacchi della Lega alla fine vincerà chi difenderà meglio? Sì, ovviamente il punto è proprio questo, adesso vogliamo entrare nel merito delle cose, cioè due attacchi stratosferici, anche se l'attacco di Atlanta è più forte e ha soprattutto più possibilità nei ricevitori e nei running back, perché hanno a 4-5 uomini da servire, Ryan, tutti molto molto forti, tra cui Julio Jones che è il principale ricevitore, cosa che ha anche i Patriots per carità, però ha più armi forse da questo punto di vista, però la difesa dei Patriots si è dimostrata eccezionale durante l'anno, nonostante alcuni giocatori che sono stati ceduti addirittura durante l'anno, tipo Collins, adesso sto facendo dei nomi oscuri per qualcuno, ma Simone lo sa sicuramente, la difesa dei Patriots si è dimostrata solidissima, al contrario di quella dei Falcons. Proprio su questo, sulla tenuta della difesa dei Patriots contro l'attacco dei Falcons, probabilmente si giocherà la partita. Quindi questa è la chiave. Quindi uno fisso. Uno fisso per chi? Poi per i Patriots. Anche fare una parentesi, secondo me anche concedere a Bill Belichick due settimane per preparare una partita è qualcosa di abbastanza difficile per gli avversari, perché come lui ha le letture sue da un punto di vista tattico sono straordinarie, è veramente un grande allenatore in grado di fare veramente delle letture tecniche eccezionali, per cui solitamente sulle due settimane diventa difficile poi battere una squadra allenata da Bill Belichick, anche se come giustamente ha detto Cruciani a volte sono anche un po' le casualità. Quel Super Bowl per esempio che citavi del 2008 c'è stata forse una delle ricezioni più incredibili della storia del Super Bowl, il famoso cosiddetto helmet catch, quello di David Ryan, che è praticamente un giocatore abbastanza inaspettato che fa una ricezione incollando con una mano il pallone al suo sì, per spiegare la situazione, praticamente eravamo alla fine della partita e Manning, che era il quarterback, sì, dei Giants, circondato da difensori dei Patriots, lancia una palla in attacco, che viene ricevuta, come diceva Simone, in un modo quasi miracoloso, e da qui poi il calcio che diede, se non mi sbaglio, il calcio che dà poi la vittoria ai Giants, no, Simone? Beh ragazzi, torniamo a parlarne a risultato acquisito. Io ringrazio ovviamente Giuseppe Crociani, ringrazio Simone Sandri da New York. Adesso è il tempo di chiudere, grazie anche a Giovanni Capuano. Sentiamo domenica dalle 17:19. 17:19, Giorgio De Luca, Gianmarco Fernato e Edoardo Lavezzari naturalmente. Ciao ragazzi. Thomas Sean Blitz. He comes with a blitz. Falcons pick it up and there's Jones. Flag is down. Julio Jones with a catch. Still going. Still in bounds. Touchdown Atlanta. My mama told me when I was young, we're all on superstars. Third and goal. Coming back to the 19. Finding Edelman for the Patriot touchdown. There's nothing wrong with loving who you are, she said. That's his third down conversion. Back to him they go. The flea flicker. Brady to the end zone. And it's a New England touchdown. Right back to Hogan again. Gonna run. Has some room and a touchdown. Good luck in Super Bowl 51.